24. Il Baol sente il pericolo. Se in una stazione affollata ci sono due lunghe file alla biglietteria, in una c'è sicuramente un signore che litigherà col bigliettaio per 25 minuti bloccando tutto. Il Baol sceglierà l'altra fila. Se in un bisunto self-service ci sono due posti liberi, uno è sicuramente vicino a un signore che è appena stato operato all'intestino crasso e arde dal desiderio di raccontarvi tutti i particolari mentre mangiate. Il Baol sceglierà l'altro posto. Se in un cinema ci sono due posti liberi, uno è sicuramente dietro una coppia di cui uno non capisce il film e l'altro glielo vuole spiegare, ma capisce meno del primo. Il Baol sceglierà l'altro posto. Se in un treno ci sono due posti liberi, uno è sicuramente vicino a un signore che è testimone della verità cosmica, sta andando al raduno annuale e da due mesi non fa nemmeno un nuovo iscritto. Il Baol sceglierà l'altro posto. Il Baol presagisce il pesce surgelato, la pallottola vagante, lo stronzo litigioso, i terremoti, le inondazioni, le maratone cittadine, gli ingorghi autostradali, l'avvicinarsi delle comete, il vomito delle diatomee. Ma non si può vivere solo di paura. Perciò il Baol affronta il pericolo con animo sereno, poiché sa che oltre alle brutte sorprese esistono a volte le belle sorprese e può succedere che ciò che sembrava funesto sarà invece propizio. Questo è scritto nel settimo libro del Baolian, quello delle bugie. Perciò ci avventurammo tra le altissime pareti del massiccio degli archivi, che dall'alto precipitavano sul pavimento trasparente come lame nell'acqua. I miei occhi cercavano quelli splendidi di Alice per comunicarle in quel momento preciso tutto il mio amore, il mio ritrovato amore, il mio restaurato amore, per farle capire che comunque fosse finita, anche se il destino ci avesse diviso nel più crudele dei modi, io le dicevo comunque grazie per aver riportato nella mia vita un sentimento così essenziale, necessario al corretto metabolismo della sopravvivenza, quale appunto l'amore, e per spiegarle quanto desiderassi, pure in quella perigliosa e incomoda circostanza, stringerla tra le braccia, baciarle appassionatamente la morbida bocca, accarezzarle i seni, levigarle le cosce, massaggiarle le spalle, alesarle le orecchie, brucarle il collo, azzannarle il sedere. «Piantala!» disse lei turbata. Quando i Baol sono molto eccitati eroticamente, pensano ad alta voce. Dietro di noi, il professor Balzer spiegava paterno a René La Mucca. «In questi archivi, dal 10 all'1, sono contenuti brani di realtà su cui gli esperti devono dare un giudizio definitivo, se siano cioè trasformabili in nuova realtà conforme allo spirito dei tempi o mantengano caratteristiche di verità irrimediabile e pericolosa o comunque assai difficile da manipolare. Abbiamo qui molti degli avvenimenti politici e sociali degli ultimi anni, colpi di Stato, attentati, trame, insabbiamenti e una sterminata massa sovrapposta di teorie e dibattiti. Abbiamo stragi oscure e oscuri delitti su cui sta per calare il sipario di una festosa indifferenza. Abbiamo biografie di persone oneste che si cercherà di disperdere nella sterminata burocrazia del cinismo e vite di fetentissimi personaggi che si spera di riportare alla ribalta e agli onori del paese. Ma è davanti all'archivio zero che il più cinico dei cinici arretra spaventato. L'inferno del dolore, della sofferenza, il magma silenzioso che sta al centro della storia del mondo, l'urlo inascoltato, il cadavere irriconoscibile, la morte inutile, il ricordo umiliato. Dall'archivio zero nulla deve tornare alla luce. Queste parole risuonavano sotto l'ampia volta sotterranea di cui non vedevamo il cielo e dopo un attimo davanti a noi apparve lo zero, un immenso cilindro di metallo che appariva annerito e bruciato agli orli, come se un enorme calore interno lo consumasse. Anzi, in qualche punto il metallo sembrava fuso e dalla cima scendevano colate irregolari, come la cera di molte candele. Ogni ronzio era cessato. Il silenzio era perfetto e spaventoso. Alice percorse con il suo microcomputer la parete liscia, alla ricerca di un'apertura. La trovò quasi subito. Il codice segreto era formato da due parole. Rinuncia, rinuncia. Una sezione del cilindro si aprì. Entrammo nell'alone di una luce calda e rossastra. Le nostre ombre ci precedevano e per un attimo ebbi l'impressione che una fosse biforcuta, che vi fossero cioè cinque ombre. Ma voltandomi, vidi solo facce note. Alice, René, Balzer e naturalmente la mia, Trucco Baol. Avanzammo con cautela fino ai piedi di una parete ancora più alta delle altre. Milioni di cassette filmate, nastri registrati e vecchie pellicole ne formavano il fittissimo alveare. Non c'era traccia di scale per salirvi, né di congegni per muovere o estrarre le singole componenti. Sembrava che tutto fosse cementato insieme e fosse impossibile separarne la minima parte. «E ora come faremo?» dissi. Alice alzò le braccia verso la parete. «L'archivio zero!» sospirò, ispirata. «La verità! La fine dell'oppressione! La luce meravigliosa che riempirà la nostra vita e illuminerà il nostro avvenire!» Come il sole, apparendo dietro un vetro sporco, trasforma gli arnesi del fabbro nel tesoro del re. Così la verità! Piantala, dissi io. Quando i ribelli sono molto eccitati politicamente, pensano ad alta voce. Alice recuperò l'abituale freddezza e consultò i suoi dati. Non esiste una mappa completa della realtà primaria, disse, in quanto il mescolarne insieme gli elementi aiuta a rafforzarne l'indecifrabilità e la segretezza. Ma da confessioni di vecchi archivisti e di donne delle pulizie, nonché delle coraggiose ricerche dei ribelli caduti prima di noi, sappiamo quali sono le divisioni in settori. Là, ad esempio, a nord-est, c'è il muro dei torturati, in cui sono conservati filmati di 70.000 morti sotto tortura, fatti poi passare per scomparsi. Nella parete sud, in basso, c'è la verità sulle stragi di Ulpian, di Medeoro, del treno di Arzak, dell'aereo di Baal, nomi tristemente noti, e inoltre la documentazione di 116 incidenti nucleari. Più su sono conservate tutte le riunioni segrete della mafia, dal circolo dei cinque nonni alla statalizzazione, e 20.000 omicidi a colori. E Grapatax? La zona delle opere proibite è situata a circa 16 metri di altezza, nella parete nord-ovest, ed è contrassegnata da cassette di colore più scuro. Là c'è il filmato che riguarda Grapatax e il Gran Gerarca. E come faremo a prenderlo? È rarissimo che si estraggano cassette della realtà zero. Avviene solo per ricattare qualcuno o per motivi di propaganda, come nel caso di Grapatax. Entro 30 secondi dall'estrazione, il computer centrale controlla se l'operazione è autorizzata. Perciò avremo 30 secondi prima che si accorgano che il nostro prelievo è fuori legge. In questo mezzo minuto noi prenderemo 3 cassette a caso e tu troverai quella di Grapatax. Ripeto, come? Con i tuoi poteri. Fai cadere la cassetta giusta giù dalla scanzia. E attenzione, non possiamo prendere più di una cassetta a testa. 2 cassette vicine si autodistruggono. Per fuggire, correremo su per quella scala gialla. Chiaro? Guardai in alto. Tra milioni di cassette, una sola era quella buona. Ci sarei riuscito? Maestro, invocai, aiutami. E una voce mi disse, ci riuscirai, Baol. Ma non era la voce del maestro. Era un uomo con un pellicciotto e un passamontagna, aggrappato come un pipistrello alla parete. Aveva scarpe magnetiche e una grossa pistola ulana puntata contro di noi. Atarva! Gridò Alice. Sì, mia deliziosa ribelle, gridò Atarva. Ti spiavo da tempo sui miei monitor. Ho spesso ammirato la tua lingerie e i tuoi tentativi per scoprire i codici segreti. Ma non temere, non ho avvertito nessuno. Possiedo anch'io i codici di entrata, meno gli ultimi 2. Voi li avete, perciò mi sono permesso di entrare insieme a voi. Ora avete anche il codice di estrazione. Aiutiamoci da buoni nemici. Cosa vuoi da noi? Dissi. Voglio la cassetta 6157. Quindi ora, Baol, tu farai cadere non solo la cassettina del tuo vecchio comico, ma anche quella cassetta, che è molto importante per me. Io la prenderò e ce ne andremo insieme, perché la professoressa Hawk conosce certamente il modo di uscire di qui. «La professoressa Hawk?» gridai. «Le spiegazioni dopo», disse Alice. «Va bene, Atarva, ognuno avrà la sua cassetta, ma dopo che succederà?» «Dopo, come è nella mia natura di Baol, sfiderò Bedrosian, perché, come dice il Baolian, quando 2 Baol sono nemici, devono combattere, finché uno solo resterà, vero?» «Ma questo avviene una volta ogni 100 anni. Tu non sei un Baol». Atarva mostrò il fiocco di neve sulla mano e rise sinistramente. «Io sono il primo Baol che ha tradito i Baol. Farò parte della storia Baol molto più di te». «E allora perché non trovi tu la cassetta?» «Perché ne ho paura e non ho poteri su di lei. Nessun Baol può far niente contro il suo segreto e tu lo sai bene». «Non è così, Atarva», disse Alice. «Tu non hai nessun potere e non puoi trovare quella cassetta, perché quella cassetta non si trova qui dentro. L'abbiamo fatta noi ribelli. Bugiarda, disse Atarva, scendendo con un balzo. Pensi di ingannarmi? Noi l'abbiamo filmata e l'abbiamo immessa con un numero falso nei circuiti dei compositori, per farvi impazzire. Prima di te abbiamo sabotato Baldini, con brani di verità primaria, vera guerra sciama. L'eccesso di realtà lo ha schiantato. Io posso sopportare quantità di reale quasi uguali a quelle di una persona normale, gridò Atarva. Ma non quella cassetta, perché tu sei composto, Atarva. Non è vero. È così. Qui all'archivio zero c'è la tua vera vita. Questo vuol dire l'ultima nota della tua biografia. Tu sei stato rapito a 12 anni dall'azienda dei computer statali perché eri un appetitoso bambino prodigio. I tuoi genitori sono stati uccisi. Le tue ferite risalgono ad allora, quando cercasti di incendiare la casa piuttosto che cadere in mano al regime. Non è vero. È una sceneggiatura a maldestra, disse Atarva, togliendosi gli occhiali e mostrando infine gli occhi glauchi e incavati. È così, Atarva. Da allora hai sempre lavorato per loro e il tuo passato veniva ricomposto volta per volta. Non hai mai avuto una moglie. Non c'è stato nessun attentato ribelle. Non sei mai stato Baol. Il tuo odio per i Baol è composto. Tu servi al regime per screditare i Baol. Hai sempre vissuto in quel fetido ufficio sotterraneo tutta la vita, una miserabile vita. Ogni 10 anni ti viene fatta un'iniezione di ricordi. E sai perché ora sei qui, contro tutti i regolamenti? Sai perché quella cassetta ti sconvolge tanto, Atarva? Perché è la tua morte, che noi abbiamo già filmato, con attori. Poiché, se il tuo passato è composto, tu hai paura del tuo futuro composto, l'unico futuro per te. L'uomo che muore bruciato nel video, sei tu, Atarva, e in fondo al cuore lo sapevi. Atarva restò un attimo silenzioso. Poi parlò, con voce tranquilla. Bella trovata! Se non fossi un compositore e non sapessi distinguere le storie vere dalle false, potrei anche caderci. Ma ora non c'è tempo per discutere. Giusto, dissi io. Vedremo più tardi chi sei. Facciamo quello per cui siamo venuti. Pronti? Disse Alice. Raccogliete le cassette e poi tutti di corsa sulla scala gialla. Azionò il microcomputer. Il muro della verità si illuminò di una luce azzurra. Urlando, indicai con un gesto 2 cassette, quelle caddero. Ne presi una. Pesava come un macigno. Atarva prese l'altra. I miei amici erano già sui gradini della scala gialla, ognuno con una cassetta. «Mancano 5 secondi!» disse Alice. «Tenetevi!» La scala gialla era telescopica. Iniziò ad alzarsi e si elevò sempre più lunga, ondeggiando verso la volta dell'archivio. Facevamo fatica a tenerci in equilibrio, aggrappati ai gradini, mentre un vento gelido ci soffiava incontro, salendo verso il buio. Poi la volta si spalancò per un attimo e un'ultima frustata della scala ci proiettò all'aperto, su un terrapieno lungo il quale rotolammo. Un frastuono indescrivibile ci assordò. Alzammo gli occhi e vedemmo l'autostrada che portava in città, con un gigantesco ingorgo notturno di migliaia di auto. L'archivio zero era situato proprio sotto uno dei nodi nevralgici della città. «Liberi!» urlò Atarva. «E adesso a noi due, Baol!» Saltò sul tetto di un'auto. Io balzai sul tetto di un'altra. C'erano già parecchi duelli al cacciavite e scontri a fuoco tra macchina e macchina, perciò nessuno ci fece caso. «Che cosa preferisci? Strappa aorta? Scontro di rimorsi? Lotta tra tenere il respiro? Trasformazione in draghi? Duello di temperature basse? Shaolin Chan San Slu? Sfida dello scorpione in gola? Scacchi coi denti?» «Ascolta, Atarva, c'è qualcosa che devo dirti. Se è il segreto non mi interessa.» «Scenda di lì!» urlò furibondo il padrone dell'auto su cui era salito Atarva. Ma Atarva non gli badò. Lanciò un urlo di guerra e si mise nella posizione di attacco Baol, quella dell'arco invisibile. Dalla macchina uscì il proprietario dell'auto col crick in mano, sua moglie armata di catene da neve, un gigantesco nonno con badile e 3 bambini con fionde sparabulloni. Atarva cercò invano di sottrarsi al loro attacco. Dalle altre macchine tutti urlavano eccitati e suonavano i clacson. Cercando di proteggersi dai colpi, Atarva si impigliò nel paraurti e si strappò via il pellicciotto. Apparve un corpo divorato dalle piaghe, ustionato. «È un infettivo!» urlò il proprietario dell'auto. Con un gesto rapido gli strappò il passamontagna dalla faccia. Apparve un viso quasi normale, con una vasta cicatrice su una guancia, il viso di un vecchio malato. Tutto accadde in pochi istanti. Mentre cercavo invano di farmi largo, decine di persone buttarono Atarva a terra, lo cosparsero di benzina e lo bruciarono per evitare il contagio. Come nel video, Atarva fece alcuni passi, avvolto dalle fiamme, e poi cadde ai miei piedi. La cassetta 6157 mi rotolò vicino. La presi. Atarva riuscì a sollevare un attimo la testa, come per dirmi qualcosa. Poi il fuoco lo avvolse. Le scintille dei peli del suo cappotto volarono in alto. L'ingorgo durò tutta la notte. Molti morirono. Elicotteri della polizia sorvolavano i chilometri di auto. Forse cercavano noi. Tornammo in città a piedi, sotto una pioggia sottile. Ce l'avevamo fatta.